Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica mattina da Stefano Zenni. Oggi abbiamo la nostra seconda lezione di jazz di questo ciclo 2013-2014 dedicata a Charles Mingus, a cui peraltro era dedicato il concerto conclusivo ieri sera al Roma Jazz Festival. Forse qualcuno di voi c'era e scoprirà anche che alcuni brani che abbiamo ascoltato ieri sera al concerto li ritroveremo oggi sotto un'altra veste, un'altra luce. Il titolo della conferenza è Peggio di un bastardo, l'autobiografia musicale di Charles Mingus, e appartiene al ciclo dei ritratti di jazz che facciamo qui alle lezioni. Cioè, piuttosto che analizzare, che so, un disco molto importante, un capolavoro, un brano, come abbiamo fatto per esempio con Love Supreme la scorsa settimana, ci dedichiamo a tratteggiare alcune grandi personalità del jazz. Per la verità, oggi, per quanto riguarda Mingus, non faremo un ritratto complessivo di Charles Mingus. In un'ora e mezza non riusciremo a farlo. Una personalità vasta, complessa, anche contraddittoria, e io mi sono tenuto, ho scelto una prospettiva molto specifica per parlare della musica di Mingus, lasciando fuori altri argomenti per il semplice motivo che così mi rinvitano qui alla lezione di jazz a fare altre lezioni su Charles Mingus. Peraltro vedo che appunto c'è meno gente della volta scorsa, e quindi la mia profezia sulla seconda si è perfettamente avverata. Ma naturalmente gli assenti hanno torto, ovviamente. Perché allora il titolo Peggio di un bastardo, come sapete, è il titolo della autobiografia di Charles Mingus che Mingus pubblicò nei primi anni 70. In realtà era quello che è stato pubblicato di questa autobiografia, che si trova anche in italiano. L'altro giorno devo dire ho notato un fatto allarmante, cioè sono andato a cercare sulle librerie online come Amazon o IBS l'anno esatto di uscita dell'edizione italiana e ho scoperto che attualmente il libro non è in catalogo. Mi auguro che sia solo, come dire, una mancanza momentanea, perché si tratta di un libro importantissimo che uscì in traduzione italiana eccellente, peraltro, nel 1980, se non ricordo male, e poi ristampato in una traduzione lievemente revisionata nel 1996 da Marcos y Marcos. La prima edizione era delle edizioni Il Formichiere, forse qualcuno se la ricorda, era una casa editrice milanese molto coraggiosa degli anni 80. Peggio di un bastardo, appunto, vi dicevo, il titolo dell'autobiografia era in realtà una massa di informe, di ricordi, appunti presi da Mingus, che poi una editor inglese, Nell King, mise insieme, gli diede una qualche forma. In realtà parlare di autobiografia nel caso di Peggio di un bastardo è un po' fuorviante, perché più che altro si tratta della, come posso dire, della registrazione del mondo emotivo, di una registrazione sismica quasi di questo mondo emotivo ribollente di Mingus. Il libro non ha un ordine cronologico esatto, non si capisce la cronologia, si interrompe in un punto qualsiasi e non si capisce neanche l'anno in cui si interrompe. A una prova dei fatti si è scoperto che una parte delle cose che Mingus scrive in questo libro sono inventate, oppure se non sono inventate sono mascherate, deformate. Sembra, come dire, una sorta di riflesso distorto dalla propria psiche del mondo emotivo vissuto da Mingus. Tra l'altro è un libro in cui si parla molto poco di musica e invece si parla molto di sesso, se la cosa vi può interessare. È un libro ribollente, scritto in uno stile trascinante, devo dire che la traduzione italiana una volta tanto rende in maniera molto efficace, e è un libro che, un po' come l'autobiografia di Duke Ellington, non va letto perché racconta dei fatti, ma perché è un diario piuttosto attendibile delle contraddizioni psichiche dei loro autori. Peggio di un bastardo, Being as the Underdog è il titolo originale, e si riferisce a uno dei traumi fondamentali della esperienza di Mingus, e cioè in una società come quella statunitense, basata sulla chiara suddivisione, perfino per legge, come sappiamo, in razze, se questa parola ha ancora un senso, non ce l'ha evidentemente, ma da un punto di vista così classificatorio l'ha avuto, e Mingus, che aveva la pelle chiara, non era nero, non era messicano, non era bianco, non era ben incasellabile all'interno delle categorie così, come dire, etniche della cultura americana, si sentiva discriminato da tutto e da tutti, escluso da tutto e da tutti, e quindi peggio di un bastardo, al di sotto di un bastardo. Ora, noi parleremo oggi, faremo un viaggio, anche andando a vedere dei dettagli molto affascinanti, proprio su questo aspetto, su come la musica di Mingus esprima in alcuni punti degli elementi autobiografici. Ora, è chiaro che qualsiasi musica è autobiografica, perché un autore che si tratti di Beethoven o si tratti di Mingus esprime qualcosa di sé quando scrive la musica. Il jazz, nel jazz questa componente autobiografica, questo esprimere se stessi, ha una, come dire, un'urgenza, un impatto, un'immediatezza maggiori, perché spesso si fonda sull'improvvisazione in cui il musicista si racconta per quello che è in quel momento, ovviamente usando tutta una serie di mezzi tecnici, il linguaggio che distanziano l'immediatezza emotiva da quello che esprimi, perché è mediata da un linguaggio, ma non c'è dubbio che l'improvvisazione risente e rifletta il contesto, il momento in cui si suoni, e quindi questo elemento autobiografico può essere ancora più, ripeto, più palpabile, più immediato. Nel caso di Mingus questo aspetto è ancora più potente, perché Mingus ha fatto della musica il centro della sua vita e, come vedremo, anche la terapia della sua vita. Mingus era una persona psichicamente molto problematica, forse una definizione potrebbe essere paranoico, probabilmente anche scisso, di questa scissione parleremo verso la fine, in che tipo di scissione, una persona che ha vissuto un'infanzia segnata dalla discriminazione multirazziale da un lato, dall'altro da un padre molto violento e da un rapporto difficile con relativamente difficile con la matrigna, perché la madre è morta poco dopo il parto. Adesso non voglio fare della facile psicoanalisi, ma diciamo che comunque la psiche di Mingus era quella di un uomo molto contraddittorio, molto problematico. E lo è stato, in effetti, fin da ragazzo. Mingus da ragazzo era musicista che ha vissuto una serie di angosce adolescenziali che sono tipiche dell'adolescenza, per esempio un senso marcato della morte, un senso del destino ineluttabile, l'incertezza del futuro. Questi aspetti Mingus li ha poi tradotti in una serie di composizioni che lui ha scritto mentre studiava con Lloyd Rees. Ieri sera chi era presente al concerto l'avrà sentito nominare più volte questo nome, Lloyd Rees, è stato il suo maestro di composizione. Mingus, lo vedremo, è nato in Arizona, a Nogales, ma la famiglia si trasferì molto presto a Los Angeles, in California, ed è lì che Mingus ha avuto la sua formazione musicale. Una formazione musicale anche classica, cioè andato da un maestro tradizionale, da un maestro di composizione che gli insegnava l'armonia. E intorno ai 18, 19, 20 anni, Mingus è nato nel 1926, quindi tra il 44, 45 e 46, Mingus ha scritto una serie di lavori, alcuni dei quali di carattere quasi pseudoclassico, quasi pseudosinfonico, alcuni scritti anche prima dei 20 anni, come per esempio The Chill of Death, che è una specie di poema sinfonico alla Strauss. Lui amava moltissimo Richard Strauss, era stato folgorato da Morte e Trasfigurazione, con questa atmosfera decadente, che è accompagnato da una poesia che lui stesso ha scritto, una poesia di un ragazzino, dove si parla di questo gelo della morte, di una morte che inganna gli uomini e, come dire, li sorprende, gli è vicino, senza che gli uomini se ne accorgano, e poi li sorprende, li inganna, portandoli appunto alla morte. Il secondo titolo, Half-Mast Inhibition, ha delle allusioni sessuali, la traduzione potrebbe essere inibizione a mezz'asta, quindi una specie di senso di anche impotenza sessuale, E poi Weird Nightmare, che appunto vuol dire un incubo bizzarro, un incubo strano, che è la canzone su cui adesso ci concentreremo. È una canzone, appunto. Mingus da un lato aveva ambizioni di compositore classico, intanto studiava il contrabbasso. Dall'altro, per campare, tra l'altro si sposò giovanissimo, un matrimonio che fu un errore, ma insomma doveva poi sostenere una moglie e un figlio, quindi cominciò a suonare rhythm and blues, a scrivere canzoni nel tentativo di imbroccare un successo. E Weird Nightmare è una di queste canzoni che lui scrisse, ma sono canzoni che non ebbero alcun successo e, come l'ascolterete, capirete perché. Perché sono impregnate in realtà di questo fatalismo decadente in cui, con forme a volte letterarie anche oscure, metaforiche, ingenue sicuramente, adolescenziali, ma molto dense, Mingus parla appunto di un mondo angoscioso, quasi depresso, che è qualcosa che si riflette anche nella musica. In particolare, Weird Nightmare sembra ispirata a certi pezzi molto torturati di Ellington, come se, per esempio, Strange Feeling, che viene dalla Perfume Suite, brani in tonalità minore con armonie cromatiche che suonano come in questo modo, cantati. Questo Strange Feeling è cantato da Hal Hibbler con l'orchestra di Duke Ellington. This strange feeling is seeping through my blood. This strange feeling is sleeping somewhere cuddled up inside me. I know it will guide me to I don't know where. This strange feeling is dashing through my head. This strange feeling is crashing like the red, red wrath of thunder. It leaves me to wonder where I am. Avete sentito? Giusto un frammento, atmosfere acide, il clarinetto basso, gli ottoni sordinati. Weird Nightmare ha un'atmosfera molto simile. Tra l'altro vi ho anche trascritto il testo, così potete ascoltarlo. Il cantante si chiama Claude Trenier, un cantante californiano il cui nome oggi non ci dice nulla. Si parla di questo sogno misterioso che ossessiona il protagonista. Sotto c'è una storia d'amore, si parla di un cuore solitario spezzato, di pena e miseria, di un amore perduto, ma il tema, diciamo, prevalente è quello di un'ossessione oscura che tormenta il protagonista. La musica presenta notevoli somiglianze con Dear Strange Feeling. Questa è una registrazione che Mingus fece nel 1946, che stiamo per ascoltare. È un brano dal suono piuttosto frusciante, pieno di ingenuità musicali, ma appunto già con una forte personalità. Ero in dubbio se farvi sentire questo brano, che è più una rarità, quindi ho optato per questa versione, oppure una versione cantata da Elvis Costello, che si trova in un omaggio a Mingus fatto, se non ricordo male, negli anni 90. Alla fine ascoltiamo il disco di Mingus. Sentite l'atmosfera molto cupa. Nightmare, you haunt my every dream. Where's nightmare? Tell me what's your scheme. Can it be that you're apart of a lonely broken heart? With nightmare, must you torment me? With nightmare, there's such pain and misery in a heart that's loved and lost. Take away the grief it's caused. Can't sleep at night, turn, twist, and fright. with the fear that I'll live it all again in my dreams. You're there to haunt me when you say she doesn't want me. I've been hurt, oh, do you know what that means? This nightmare, take away this dream you've gone. Where's nightmare? Mend the heart that's torn and has paid the cost of love a thousandfold. Bring me a love with a heart of gold. Sax tenore e di Lucky Thompson. In quegli anni Mingus, aggiungo un dettaglio, Weird Nightmare è rimasta nel repertorio di Mingus fino agli anni 60, cioè un pezzo a cui lui teneva evidentemente, così come teneva a Portrait, che lui ha continuato a suonare fino a tutti gli anni 70, scusate, con vari titoli, tra cui quello che ascolteremo adesso è Old Portrait. Portrait in realtà ritratto potrebbe avere il titolo di autoritratto. È un pezzo che ha varie caratteristiche tipiche di Mingus. Io però ve lo faccio, prima di discuterle queste caratteristiche, ve lo faccio sentire un frammento, almeno il tema per intero, suonato dallo stesso Mingus al pianoforte in una famosa registrazione del 63 dal disco Mingus Plays Piano. Mingus aveva studiato il contrabbasso, ma era un buon pianista, componeva al pianoforte, elaborava le sue idee al pianoforte, il pianoforte era proprio il suo laboratorio creativo, e alla fine, nel 1963, pur avendo già registrato qui e lì delle cose al pianoforte, decide di fare un disco completamente in piano solo, come un pianista, come se fosse Art Tatum o Bill Evans. È un disco bellissimo, e lo sentiamo allora suonare il tema di Portrait per farvi sentire com'è. Come fa? Thank you. Poi lui comincia a improvvisare, ma non ascoltiamo il resto del pezzo. La prima caratteristica di Portrait è che contiene una serie di gesti musicali, no? Di caratteristiche musicali, che possiamo associare ai momenti in cui Mingus parla di sé. Cioè, quando Mingus scrive dei pezzi nei cui titoli dice «Io sto parlando di me stesso», troviamo una serie di caratteristiche musicali che ci fanno capire che quegli elementi musicali sono una traduzione della sua biografia, dell'essere se stesso. La prima è la tonalità di re bemolle. Che cos'è la tonalità di re bemolle? In pratica, nel sistema tonale, uno può suonare in qualsiasi tonalità, perché tutte e 12 le tonalità sono uguali. Io posso suonare così. Posso, in si bemolle. Posso suonare questa cosa in mi bemolle. Cambia l'altezza, ma il sistema, la relazione fra le note non cambia. Quindi, che io suoni in si bemolle, che io suoni in mi bemolle, è praticamente uguale. In realtà ci sono, almeno dal punto di vista della teoria musicale, in realtà nella pratica fisica dello strumento, scegliere una tonalità anziché un'altra implica un sacco di cose diverse. Per esempio, come sapete, sul pianoforte ci sono delle note, ma questo vale anche per qualsiasi strumento, vale per la tromba, per il sassofono, per la chitarra. Vedete, sono tasti bianchi e neri, le dita si appoggiano in modo diverso sul tasto bianco e sul tasto nero, con maggiore sicurezza sul tasto bianco perché è più largo, con minore sicurezza sul tasto nero perché è più stretto. Inoltre, le posizioni delle dita sono diverse a seconda che suoni più tasti bianchi o più tasti neri, come sono combinati. Per esempio, la tonalità di re bemolle di solito è considerata, tra virgolette, difficile perché è fatta di 5 tasti neri e 2 bianchi. Quindi le dita si trovano in una posizione sempre un po' precaria, un po' più scomoda. Bene, inoltre si dice che le tonalità abbiano dei colori. Questa è una cosa molto discussa, cioè che questa tonalità sia più densa di questa. Oppure è una cosa che tra musicisti si discute molto, è un argomento, se tutte le note sono uguali, se tutte le relazioni sono uguali, come faccio a dire che una è più densa, un colore diverso? Molti musicisti pensano che le tonalità abbiano colori diversi, e re bemolle è considerata una tonalità dal colore denso. Non so se sia esattamente così, però vi posso dire questo con certezza, cioè che Mingus, quando si metteva al pianoforte per cazzeggiare, per suonare da solo quello che voleva, per esempio per fare il tema di Portrait, comincia così. Ok? Quando faceva cose del genere, Mingus suonava in re bemolle. Chiunque di voi è musicista, qualsiasi strumento suoni, sa che tutti abbiamo una tonalità preferita. Ci mettiamo al piano, prendiamo il sax, imbracciamo la chitarra e ci viene da suonare, ci piace suonare in quella tonalità, ci viene facile, è qualcosa che sentiamo che aderisce bene anche alla nostra fisicità. Per Mingus era il re bemolle, che è strano perché è una tonalità appunto difficile. La cosa impressionante è che Mingus ha scritto un sacco di pezzi in re bemolle legati all'autobiografia, cioè pezzi come Portrait e in re bemolle. Myself When I'm Real, che è il brano che apre Mingus Plays Piano. Capite già dal titolo? Me stesso quando sono vero, in re bemolle. The Black Saint and the Sinner Lady, su cui torneremo, che è uno dei dischi più autobiografici di Mingus, in si bemolle minore e re bemolle. L'uomo che non dorme mai è lui stesso, come sentiremo, che soffriva di insonnia, e in re bemolle. Poi ci sono dei brani che sono delle dediche. Sono tutti in re bemolle. Farwell, dedicato a un pittore, Farwell, che era un suo amico d'infanzia. Dizzy Moods, dedicato a Dizzy Gillespie. Peggy's Blue Skylight, che è il pezzo d'apertura del concerto di ieri sera, in re bemolle, dedicato a Peggy Hitchcock, una pittrice londinese. Duke Ellington's Sound of Love, è in re bemolle perché il pezzo è ispirato, dedicato a Duke Ellington, in realtà è ispirato a Lush Life, di Billy Strayhorn, e Lush Life di Billy Strayhorn, indovinate, è in re bemolle. Anche chi di voi è entrato stamattina in questa sala senza sapere cos'è il re bemolle, adesso può dire fuori agli amici che sai, Lush Life in re bemolle e anche Duke Ellington Sound of Love in re bemolle. E poi ci sono le dediche, diciamo, di carattere amoroso, in particolare a Sue, la sua ultima compagna e moglie. Scusate, questa è la seconda moglie, Celia, che è in re bemolle. E poi quelli dedicati a Sue, The Eye of Hurricane Sue, che è in re bemolle, As Is Due, e più famosa di tutti, Sue's Changes. Tutti i pezzi in re bemolle. Quindi, nel momento in cui troviamo questa tonalità, sappiamo che il pezzo deve avere delle risonanze di carattere privato, diciamo così, personale, molto personale. Ma no, questi non sono gli unici gesti autobiografici che troviamo in Portrait. Un altro elemento è questo, è la melodia discendente. Ok? Questa si trova in diversi temi di Mingus, in re bemolle ovviamente. E poi c'è il motivo, chiamiamolo espressivo, cioè quella cosa che fa così. Ok? Bene, quando sentite una melodia che scende così, e poi... può anche salire invece che scendere, oppure scendere. Beh, ce ne sono a dozzine nei pezzi autobiografici di Mingus di questi motivi. La composizione è del 46, ma l'esecuzione... Sono praticamente identici. Sue's Changes è quasi una citazione di Portrait. Lui sta parlando della sua compagna e inizia questa dolcissima melodia con gli stessi gesti di Portrait. Ci sono altri gesti musicali autobiografici. Una di queste è la variazione del motivo espressivo, cioè questa. In Portrait addirittura lui fa... Ok? Poi fa... Una volta scende... e una volta sale. Anche queste due variazioni del motivo espressivo si trovano in molti esempi. Un paio, ve ne faccio sentire. Più abbellita, ma non so se siete riusciti a cogliere, il nocciolo fondamentale è lo stesso. Ancora, uscendo da Portrait, c'è un altro aspetto, oggi abbondiamo in termini tecnici, forse quelli che non sono venuti lo sapevano e hanno deciso di rimanere a casa piuttosto che affrontare questa impervia domenica. La modulazione è quando si cambia di tonalità. Tutto qua. In realtà, quando si cambia di tonalità, si possono ottenere effetti molto diversi. In particolare, Mingus, nei suoi pezzi autobiografici, amava cambiare colore andando, diciamo, collegando tonalità che l'orecchio percepisce come molto distanti, come molto diverse. In particolare questa, sentite, anche senza essere esperti di armonia, sentite come suona lontano il passaggio fra questa cosa. Ad esempio... sono in re bemolle. poi faccio. Ok, ora ascoltate. Poi. Eccola. Avete sentito il cambio di colore? Ancora. E poi, via via, più morbido. Eccetera. Quindi ve la faccio risentire. Io sono in questo ambiente. Poi cambio. E improvvisamente, scusate, avete la sensazione che il pezzo si apra, no? Come se si aprisse una finestra, come se entrasse più luce. Per chi di voi sa di cose tecniche, passare dal re bemolle a mi maggiore. Questo non è importante per chi non ne sa di cose tecniche, ma è un effetto molto luminoso e si trova in diversi pezzi di Mingus. L'ammorbidimento sempre. Poi torna a casa. Ecco, questo sbocco lirico è caratteristico di tanti pezzi in re bemolle autobiografici di Mingus. Stiamo indagando come il linguaggio musicale permetta a Mingus di identificare delle aree, dei gesti, delle soluzioni sulle quali lui proietta evidentemente una sua visione espressiva ed emotiva. C'è ancora un altro esempio, il motivo patetico, cioè c'è una piccola melodia che Mingus usa spesso, ieri sera l'abbiamo sentita in due o tre pezzi uno di seguito all'altro, che si dice una melodia cromatica, in parole povere, quando suonate tutti i tasti bianchi e neri del pianoforte in ordine ascendente o discendente, tipo così. Fin... Oh, ecco. partito da solo. Eccola. Ancora. Ancora, ci dovrebbe essere un altro esempio. Allora, no, ok, allora ne approfitto per dire un'altra cosa. Questo motivo discendente, fin dal 600, dal 500 direi, ma forse anche prima, è associato all'idea del patetico, del pianto, del lamento. E quindi non è un caso che Mingus la usi come una specie di piega, come posso dirvi, di piega emotiva, di piega lamentosa, di piega espressiva, patetica, all'interno di questi pezzi autobiografici. Eccola, arriva, scusate. Qui ne sentite tantissime. Sono... Allora, scusate, vi ho fatto un piccolo... Ho fatto un piccolo pasticcio con i tempi, vi chiedo scusa. Succede quando il software si fa troppo complicato, allora ve li faccio sentire, ve lo faccio risentire così. Scusate, ecco. Intessuto di questo motivo patetico, anche quando sale. Il sax sottofondo e il pianoforte, tutta la trama che è fatta di questo motivo, eccetera. Si può avere sul tempo rapido, ta ti da da da da ti da da da da. Ancora su tempo rapido. Arriva. Ecco. Ok? Sono tutti esempi in cui C'è questo tempo rapido o lento e abbiamo questo motivo espressivo. Ora, forse il brano più impressionante in cui c'è questo motivo espressivo è il primo tema di un brano molto esteso, di forte carattere autobiografico, che è Meditations on Integration. Mingus, che aveva vissuto sulla propria pelle la discriminazione razziale, la difficoltà a integrarsi, ma anche a trovare una propria identità come essere umano, identità personale, psichica e sociale, ci teneva moltissimo al problema dell'integrazione fra bianchi e neri. Era un musicista politicamente impegnato, consapevole e anche lacerato, combattuto fra, quasi in maniera amletica, fra il combattere, l'agire, il darsi da fare, il mettersi in prima linea, oppure cercare l'integrazione, trovare una via pacifica di unione con il resto della società. E quindi c'è questo pezzo, che è uno dei grandissimi capolavori di Mingus degli anni 60, Meditations on Integration, la meditazioni sull'integrazione, quindi di carattere fortemente autobiografico, che inizia con questo bellissimo tema di flauto e contrabbasso con l'arco che suona come un violoncello. Vi ricordo che Mingus cominciò come violoncellista, non fece il violoncellista per un banale motivo: era negro. E voi avete visto violoncellisti classici neri in giro? No. Figuriamoci negli anni 50, 40, quando Mingus cominciò, un amico di famiglia gli disse: lascia perdere il violoncello, non andrai da nessuna parte. Prendi il contrabbasso e fai il contrabbassista. Un negro fa il contrabbassista. Quindi il problema razziale lo condizionò anche nella scelta dello strumento. Quando Mingus suonava il contrabbasso con l'arco, diventava quel violoncellista adolescente che aveva iniziato lo strumento in questo modo. Un filmato in Svezia del 1964. Sono in uno studio, il flautista è Eric Dolphy, e sentirete il bellissimo tema di Walzer, di Meditations on Integration. Come se niente fosse, passa dal flauto al clarinetto basso, due strumenti su cui era maestro assoluto. Ora, di tutti questi gesti, c'è un brano che li riassume tutti: la modulazione luminosa, i cromatismi, il motivo espressivo, ed è The Man Who Never Sleeps, che Mingus registrò, cioè aveva in repertorio negli anni 70. Perché l'uomo che non dormiva mai? Perché Mingus era ipocondriaco, aveva insomma i suoi problemi. Nel 1960, tra il 65 e il 66, si ritira dal mondo della musica e si fa rinchiudere in una clinica psichiatrica di sua spontanea volontà. dove verrà curato a base di psicofarmaci, ne uscirà obeso alla fine degli anni 60 e riprendendo la sua attività professionale regolare negli anni 70, prima faticosamente e poi con questa nuova formidabile stagione dal 74 in poi, quando lo vedemmo anche ad Umbria Jazz in Italia tra il 74 e il 75. Visto che si parla di autobiografia, il primo musicista di jazz che ho visto in vita mia è stato proprio Mingus a 13 anni nel 1975 a Pescara. E in questa foto lo vediamo con la sua valigetta piena di medicine e pillole, l'uomo che sorride al suo fianco e addirittura Brian Epstein, cioè il manager dei Beatles. Questa è evidentemente una foto fatta a Londra durante la fine del tour del 64, e insomma l'uomo tormentato dall'insonnia, dalle medicine e dalla depressione è lui stesso. E quindi un pezzo che si chiama The Man Who Never Sleeps non può che essere in re bemolle, non può che avere tutti quei motivi espressivi, i cromatismi e le modulazioni. È un tema bellissimo che non si suona mai ed è un vero peccato, perché Mingus lo ha eseguito con gruppi minori nei primi anni 70, quando faticosamente tornò sulla scena, e poi non l'ha più ripreso, quindi un po' dimenticato. Me lo faccio sentire almeno il tema. Il motivo espressivo. era bellissimo, vero? Un brano notevole. Notate anche che tutti quegli elementi che vi ho descritto prima, qui non è che siano tutti facilmente identificabili. Se qualcuno di voi non li ha riconosciuti, non si senta un incapace. In realtà è questo, come dire, il lavoro dell'artista. Lui ha una serie di elementi, di ingredienti sotto le mani, ma poi quando va a comporre i pezzi, questi ingredienti vengono sciolti, rielaborati, distesi in una trama in cui non sempre sono facilmente riconoscibili, ma sono, come dire, l'elemento sottostante di ispirazione e rendono così poi memorabili melodie come questa. Ora, in questo secondo blocco di gesti musicali legati all'autobiografia, vorrei farvi entrare in altri discorsi di carattere musicale. Un altro elemento che si trova in molti pezzi di Mingus, in gran parte autobiografici, è il cosiddetto turnaround in minore. Ora, sicuramente siete spaventati, ma se io vi dico che Sapore di sale è basato sul turnaround, la lascio cantare a voi. Ok? Il cielo in una stanza, stessa cosa. Questi quattro accordi si chiama turnaround perché danno la sensazione che tutto giri, no? Intorno a questo. D'accordo? È una componente fondamentale di tutta la musica tonale da Bach in poi, da Bach a Gino Paoli, diciamo, se vogliamo, se avete una visione, come dire, pessimista della storia. Però con tutto il rispetto, scrivere canzoni memorabili su questi quattro accordi davvero non è facile. Questa è la tonalità maggiore. Questo giro si può fare nella tonalità minore, cioè quella che suona così. E secondo voi Mingus preferiva la maggiore o la minore? Chiaramente preferiva quella minore, e allora gli accordi vanno modificati e suonano così. Sì. Oppure possono suonare così. Sentite che sono più patetici, perché dentro questi accordi c'è quel movimento cromatico, quel motivo patetico discendente di cui parlavamo prima. Quindi, anche questo non l'ha mica inventato Mingus, è un elemento musicale molto, molto antico. Spesso Mingus associa al turnaround in minore, cioè a questo tipo di sonorità, un effetto di piramide sonora, cioè gli strumenti che entrano uno alla volta. Ma questo lo vediamo dopo. Prima sentiamo il turnaround minore. Ci sono un sacco di pezzi di Mingus basati sul turnaround in minore. Lui sceglie due tonalità. La sua preferita è Fa minore, quindi questa. Oppure Sol minore. Fa minore è un'altra tonalità tipica dell'autobiografia mingusiana ed è la tonalità del pezzo svolta della carriera di Mingus, Pithecanthropus Erectus. Pithecanthropus Erectus è un disco che ha cambiato la vita a Mingus perché gli ha fatto comprendere alcune cose fondamentali del fare musica, ma questo sarà argomento, vero Catucci, della lezione della stagione 2014-2015. Faremo una lezione su Pithecanthropus Erectus, quindi intanto però già sapete cos'è il turnaround in minore e vi verrà fatto uno sconto se poi sapete rispondere alla domanda in biglietteria. E a parte gli scherzi, Pithecanthropus Erectus è un brano chiave, è un brano che si distingue da qualsiasi altra cosa del jazz di quegli anni. Non è un pezzo hard bop, non è un pezzo soul, non è un blues, non è un pezzo cool jazz alla Stan Getz, ma ha questo inizio espressionista, compresso, silenzioso, che poi improvvisamente esplode ed è basato appunto su quel turnaround in minore, su questo basso. così molto grezzamente, ascoltiamolo direttamente da Mingus. Sono tutti insieme, ci torniamo su questo. Turn around. Improvvisamente si conta in tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. E tutti suonano insieme. Comincia l'assolo di Jack Montrose. Noterete qui, ma su questo non mi dilungo, due grandi novità nella storia del jazz. La prima è questo elemento polifonico che veniva, cioè di tutti che suonano contemporaneamente insieme, che veniva dal jazz di New Orleans, ma che in Mingus, che era sparito dall'orizzonte del jazz, da Louis Armstrong in poi, e che in Mingus assume una qualità gridante, selvaggia, caotica, aggressiva, e che è una delle grandi novità di rottura della musica del Novecento, tout court. L'altro è la rottura della regolarità del tempo. One, two, three, four, one, two, three, four. No, si suona in quattro e improvvisamente diventa un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Questo nel jazz non era mai veramente successo in maniera regolare, perché il jazz nasce come musica da ballo. Abbiamo dedicato a questo una lezione l'anno scorso, se vi ricorderete. Nasce come una musica da ballo, la musica da ballo ha bisogno di regolarità, di continuità. O sei sempre in quattro, o come nel valzer, sei sempre in tre. Non puoi fare un po' in quattro, un po' in tre e poi cambi. Mingus rompe con questa continuità e introduce il cambio di tempo. Addirittura la fine di Pithecanthropus Erectus, un pezzo che dura quasi un quarto d'ora, c'è addirittura un'accelerazione e poi una decelerazione, un rallentamento, che è un altro elemento di assoluta novità nel jazz, è un altro elemento di rottura del tempo che Mingus introduce. Ma questi sono argomenti, diciamo, che non sono strettamente legati agli elementi autobiografici, mentre lo sono sicuramente il turnaround in minore, oppure la polifonia a piramide. Che vuol dire? Nel pezzo che avete sentito adesso, tutti suonano insieme liberamente, ognuno fa quello che gli pare. Mingus in altri casi ha creato una polifonia controllata, cioè dando la sensazione che tutti suonino a casaccio, ma in realtà tutti fanno cose preparate. Perché a piramide? Perché gli strumenti entrano, non tutti insieme come avete sentito qui, ma uno alla volta, dal più grave, per esempio il sax baritono o il contrabbasso, via via verso i più acuti. Nel brano che stiamo per ascoltare, il sax baritono, i tromboni, il sax tenore, il primo sax alto, il secondo sax alto. Quello che arriva in cima, alla fine, improvvisa. Gli altri suonano tutte parti scritte. Quindi abbiamo questa specie di movimento rotatorio a piramide che si basa su che cosa? sul turnaround, cioè su quelle quattro note, in minore, in questo caso in sol minore. Scusate. Ok? In sol minore, con questo effetto piramidale. Il disco in cui compaiono più spesso questi giochi è Blues and Roots del 1958. E noi ci ascoltiamo l'esposizione del tema di Monin. Qui assistiamo a un altro elemento di rottura nel linguaggio musicale del jazz, la rottura della forma, perché il pezzo ha una struttura A-A-B-A, cioè vuol dire c'è un'idea, questa idea è ripetuta, poi c'è un contrasto B e poi c'è la ripresa della prima idea. Qui no. Mingus la A, cioè la prima idea, la sentirete, la suona tante volte quanti sono gli strumenti che devono entrare. E dopo che sono entrati tutti gli strumenti, la suonano ancora e ancora per creare un climax e poi, finalmente, a un suo segnale, si passa alla B. Quindi la struttura è come allungata, come stirata, per far in modo che la musica cresca in maniera selvaggia. In quella che sembra un finto, cioè sembra caos, ma è un finto caos, perché praticamente è tutto scritto. Turn around. La piramide, il baritono. I tromboni. Ognuno ripete sempre la stessa cosa. Sax tenore. Contrabbasso giù. Primo sax alto. Secondo sax alto. Ancora. Finalmente la B. La A. O turn around. Poi entra Jackie McLean e comincia il suo assolo. Lo so, un gran bel pezzo. Questo turnaround minore si trova in molti pezzi legati ad elementi autobiografici. Per esempio, in un brano del 1954, Praepitecant Opus Erectus, quando la musica di Mingus la sentirete più algida, più fredda, più distaccata, anche più composta. E c'è questo giovanissimo sassofonista, Rudy Williams, che era un suo amico, che non è mai diventato un nome noto perché è morto eroinomane, giovanissimo, e lui gli scrive, dedica questo pezzo funebre, e il pezzo funebre, guarda caso, comincia con il turnaround in minore. Come dite Cantrobus Erectus. Poi il pezzo si sospende, eccetera. C'è invece una versione rapida del turnaround, un po' come in Monin, che è una dedica a Thelonious Monk. Jump Monk 1956, registrato al Caffè Bohemia, con questo tema sempre, sempre fa minore. Stesso giro. Solo che questa volta è rapido. Fa così il tema. Eccetera. Lo sentirete, dopo un'introduzione attacca questo tema molto rapido sul turnaround. Eccolo qua. Proprio ce lo fa sentire in maniera didascalica. Improvvisando entrano un po' alla volta tutti gli strumenti, trombone di Jimmy Napper, il tema sul turnaround. Quando fanno la B è sempre il turnaround. Sempre. Poi c'è un orizzonte autobiografico di tipo geografico, ed è il Messico. Il Messico ha, come sapete, nell'immaginario statunitense un significato particolare, anche nella letteratura, pensate a On the Road di Kerouac, in cui i protagonisti si spingono come ultimo confine, diciamo, del loro viaggio proprio in Messico. È il paese cattolico, il luogo del peccato, il luogo dei piaceri, il luogo della libertà, è come dire, è un altro luogo. E poi sapete benissimo che la California, dove Mingus è cresciuto in precedenza, era stata spagnola. Mingus ha dei rapporti molto particolari con il Messico. Intanto è nato a Nogales, che non è lontano dalla, ahimè, famigerata Ciudad Juárez. È nato a Nogales, in Arizona, proprio al confine con il Messico. Tra l'altro, se andate a ingrandire la mappa, scoprirete... Ops, chiedo scusa, torniamo indietro. Ovviamente ho fatto il pasticcio. Eccola qui. Se andate a ingrandire la mappa, noterete che Nogales, che vuol dire noci, mi pare che c'è un paese con lo stesso nome in Puglia, ma lì non c'è nato Mingus, però si faceva un grande festival del jazz negli anni 80 e 90. La noci dell'Arizona, Nogales, è di fronte a un'altra Nogales gemella che sta invece al di là del confine, sta nel Messico. Mingus quindi è nato lì, in realtà da un punto di vista culturale questa nascita ai confini diciamo, proprio sul confine con il Messico, non ha avuto un grande peso perché, come vi ho detto, la madre è morta poche settimane dopo il parto, la famiglia si è trasferita poco dopo a Los Angeles e lì poi il padre si è sposato con un'altra donna che vedremo ha avuto un ruolo molto importante per vari aspetti, una matrigna molto importante per Mingus. Questo è un aspetto. Poi c'è un aspetto legato all'esperienza giovanile di Mingus. Una delle cose che si possono leggere in controluce tra i mille fatti inventati o esagerati dell'autobiografia di Peggio di un bastardo è proprio questo rapporto con il Messico. Per esempio Mingus racconta che da adolescente aveva avuto un rapporto amoroso con un'altra ragazzina conosciuta a scuola, che era scoccata la scintilla fra di loro e che avevano deciso un giorno, un pomeriggio, di fare una fuga in Messico con questa ragazzina per andarsi ad amare al di là del confine, in un orizzonte di libertà. Ecco, allora questa idea di associare l'amore, un amore libero, un amore puro, all'adolescenziale, al Messico, si riflette in una delle sue prime composizioni. L'idea che il Messico e la musica messicana siano un orizzonte possibile. Tra l'altro, nell'autobiografia Mingus ricorda che da ragazzino, quando cercava di integrarsi nei vari gruppi etnici e tutti lo respingevano, i neri lo respingevano, i bianchi lo respingevano, provò a farsi passare anche per messicano e i messicani ovviamente lo respinsero. C'è questo brano giovanile, anche questa è una piccola perla che vi regalo, una rarità, un brano che non si ascolta facilmente, del Mingus giovanile, dei suoi primissimi dischi come Weird Nightmare di prima, stesso periodo, siamo nel 47-48, e c'è un pezzo che Mingus peraltro ha inciso due volte che si intitola Story of Love, appunto la storia d'amore, forse quella con la ragazzina dell'autobiografia, non lo sappiamo, però a questo titolo Mingus associa senza possibilità di equivoci questa atmosfera. Yeah. Nell'autobiografia Mingus racconta che in un periodo di particolare depressione decise di suicidarsi, ma lo fece, aveva deciso di farlo in un modo piuttosto bizzarro, in un'orgia. E devo dire che lo farei anch'io in questo modo. Che posto scelse per liberare se stesso dai fantasmi della sua angoscia? Se ne andò a Tijuana. Tijuana, che come vedete non è proprio vicino a Nogales, ma comunque è una città, un'altra città di confine. E la città di confine si trova in Messico, come sapete, ed è un po' anche nel cinema, no? Il simbolo della classica città di traffici, del malaffare, ancora oggi una città ad altissimo tasso di pericolosità, dove tra l'altro Orson Welles ha ambientato il suo sommo capolavoro Touch of Evil, l'infernale Quinlan, vi ricorderete, con quell'attentato proprio al confine fra Messico e Stati Uniti, sui titoli di testa del film, il grande piano sequenza. Ecco, Tijuana è, poi si trova, la si vede anche in Traffic di Steven Soderbergh, che è un po' come andare appunto da Bach a... Tijuana è la città dove Mingus fece un viaggio e ci racconta di quest'orgia in uno dei capitoli più visionari della sua autobiografia, che è fatto questo capitolo esclusivamente di rumori sessuali, rumori di porte che si aprono e si chiudono, delle voci di queste prostitute messicane. È un patchwork di suoni, rumori, ritmi assolutamente travolgente. Questo viaggio in Messico poi si tradusse in una sorta di diario musicale. E il diario musicale è un disco tra i più belli e anche più sfortunati per certi versi di Mingus, che è Tijuana Moods del 1957. Tijuana Moods è il viaggio, il diario di viaggio, e infatti i brani sono una sorta appunto di scansione di questo viaggio. Si apre con Dizzy Moods, guarda per caso un pezzo in re bemolle, che è un omaggio agli Stati Uniti, al suo grande amico Dizzy Gillespie, è seguito da Isabel's Table Dance, che è la rappresentazione vivida, teatrale, di una ballerina di flamenco di Paso Doble che danza sui tavoli di una bettola che Mingus aveva visto. Poi c'è il ritratto dei negozietti per turisti di souvenir, Tijuana Gift Shop. Poi c'è il tentativo di catturare la musica dei mariachi, dei gruppi di musica tradizionale messicana ascoltati per le strade di Tijuana. E infine il ritorno a casa, Flamingo, un pezzo finto messicano, ma scritto invece da compositore, da una canzone americana, che fa dell'esotismo, quindi una sorta di addio, di ritorno a casa. Questa è come dire, il palinsesto, l'impaginazione di Tijuana Moods. È un disco molto importante, ne parleremo nella prossima stagione, anzi la stagione a questo punto 2015-2016, per non fare sempre solo Mingus, è un disco capitale per Mingus. Io vi farei sentire l'inizio, perché è un brano molto lungo, di Isabel's Table Dance, nel suo gruppo Mingus invita questa Isabel Morel, una cantante e danzatrice messicana che canta e suona le nacchere e crea questo effetto di colore, con tutti gli elementi anche di polifonia. Con il contrabbasso, con l'arco, Mingus imita una specie di chitarra flamenco. Violoncello sembra. We'll be right back. traduzione è un po' brusca, perché è brusca comunque nell'originale. C'è un elemento biografico, non autobiografico, biografico fortissimo, che lega Mingus al Messico. Abbiamo detto, la matrigna, cioè la madre muore poco dopo il parto e pochi mesi dopo il padre si sposa con un'altra donna, Mamie Carson, che ha un figlio e che quindi diventa il fratellastro di Charles. Questo figlio si chiama Odell Carson, aveva 20 anni più del piccolo Charles ed è morto quando Charles era adolescente. Noi sappiamo, e questa è una delle poche cose che si colgono dall'autobiografia, leggendo sempre, come dire, in trasparenza il testo magmatico dell'autobiografia, primo, che a un certo punto, chissà perché, Mingus non ce lo spiega, il piccolo Charles si è sentito in colpa per la morte di Odell Carson e quasi dialogava con lui come se Odell gli parlasse dall'aldilà e gli dicesse che non doveva sentirsi in colpa. La seconda cosa importante riguardo questo signore di cui non sappiamo praticamente nulla è che, ce lo dice Mingus, in casa suonava la chitarra flamenco. Aveva una chitarra acustica e si dilettava a suonare musica evidentemente non dissimile da quella che avete appena ascoltato. Questo elemento di chitarra flamenco, che è il fantasma di Odell Carson, il fantasma del fratellastro più grande per la cui morte ci si sente in colpa, riaffiora molto spesso nella musica di Mingus. In particolare in due episodi. Il primo è clamoroso. Il pezzo Myself When I'm Real, me stesso quando sono vero, che viene da Mingus Plays Piano, quello di cui abbiamo ascoltato prima Portrait, vi ricordate? Lo stesso album. Il pezzo, abbiamo detto, è in re bemolle, perché ovviamente è autobiografico, è una libera improvvisazione, non c'è un tema preciso, e sentirete in modo impressionante che, chissà perché, uno si chiede, Mingus col pianoforte imita la chitarra flamenco. Uguale. Lo sentirete. E fa proprio il ribattuto, il tremolo tipico e il fraseggio tipico della chitarra flamenco. Ora che sappiamo di Odell Carson, riusciamo a spiegarcelo. È un dialogo a distanza con il fratellastro. Di Meditations on Integration. Thank you. cui sfuma il brano dura 7 minuti. C'è ancora un ultimo elemento da dire sul Messico. Mingus è morto in Messico, è morto a Cuernavaca, fulminato nel giro di un anno e mezzo dalla sclerosi laterale amiotrofica, è una malattia per la quale, sapete, non c'è ancora una cura, e andarono in Messico perché, colpito dalla SLA, Jerry Mulligan consigliò a Sue Mingus di tentare l'ultima carta, andare da una guaritrice che era in Messico. Cuernavaca è una città che si trova su un altipiano, è molto in alto, e fra, avete visto, fra Città del Messico e Puebla, c'è un'aria particolarmente buona, e quindi, e in più c'era questa guaritrice, un ultimo tentativo che naturalmente non porterà a nulla, e Mingus muore nel gennaio del 1979 a Cuernavaca, le sue ceneri poi saranno disperse nel Gange. Quindi c'è un legame, come posso dire, fortissimo anche con la morte. Il Messico è il luogo dell'anima di Mingus, è il luogo evocato dalla chitarra del fratellastro, è l'orizzonte dell'amore, è l'orizzonte della libertà ed è anche l'orizzonte dell'ultimo passaggio della sua vita. Tutto questo trova una straordinaria sintesi in quello che, a mio modestissimo avviso, e ci avviamo verso la conclusione, il suo sommo capolavoro. Se qui dentro nessuno di voi conosce a fondo Mingus e dovessi consigliargli un solo disco, gli direi: ascolta questo disco, The Black Saint and the Sinner Lady, perché questo disco è la sintesi ribollente, magmatica della sua musica ed è il disco più autobiografico, secondo me, della storia della musica, uno dei dischi più autobiografici della storia della musica. Per cominciare, ha una caratteristica unica, credo, qualcuno magari mi smentirà, non conosco altri casi, è l'unico disco a mia conoscenza in cui le note di copertina sono state scritte dallo psichiatra del musicista. Mingus ci teneva talmente tanto che il disco, se non lo comprate su iTunes ma comprate il vecchio LP o il CD, si apriva e c'erano da un lato delle note di spiegazione di Mingus che si diffonde in mille dettagli sulla musica, spiega come ha concepito il pezzo, che cosa vuole essere, come ha messo gli strumenti intorno ai microfoni. Mingus era molto generoso da questo punto di vista, amava parlare della sua musica. E poi c'è una parte invece che lui riserva al suo psichiatra, che spiega come questa musica sia appunto l'espressione quasi diretta, non mediata, del suo paziente, di una personalità complessa e tormentata. È immaginato come una specie di grande balletto, cioè con dei ballerini, proprio una coreografia che poi non è mai stata realizzata. Al tempo stesso il disco è anche un colossale omaggio al, e questo è un altro aspetto autobiografico di cui abbiamo solo accennato, al suo più grande ispiratore musicale, cioè Duke Ellington, al punto da chiedere al sax alto Charlie Mariano, come sentirete, di imitare lo stile di Johnny Hodges. E in effetti questa è proprio una sintesi autobiografica di tantissimi elementi. Per cominciare c'è la psicoanalisi. Abbiamo visto Mingus poi addirittura si fa ricoverare. C'è l'elemento razziale, notate bene il titolo, il santo nero è la peccatrice, non viene detto che è bianca, ma se il santo è nero, la peccatrice sarà bianca. L'elemento della tentazione. C'è tutto un discorso da fare appunto sul rapporto fra Mingus e il femminile. Il femminile è fondamentale in Mingus. Mingus, vi ricordo appunto, è vissuto e cresciuto con una matrigna, adorava le donne. Il suo libro è intriso di figure femminili, di sesso anche tantissimo, quindi anche con rapporti, nel momento in cui se ne parla tanto, in modo anche problematico. Abbiamo detto Duke Ellington come padre musicale e poi il Messico. Perché il Messico? Perché c'è una cosa strana in questo disco. Ci sono degli episodi in cui dal nulla compare, dovete credermi, letteralmente dal nulla, compare una chitarra flamenco. Jay Berliner, e nessuno si è mai chiesto ma perché c'è questa chitarra che si aggira lungo il pezzo e compare nei momenti più inopinati. Evidentemente è letteralmente il fantasma, ma mi dovete prendere alla lettera, il fantasma di Odell Carson, la memoria della sua adolescenza. Io vorrei farvi sentire, per intero finalmente, dura pochi minuti, l'episodio finale della prima parte, del lato A del vecchio LP, si conclude con una cadenza di sax alto. Troverete tutti gli elementi di cui abbiamo parlato, compreso il motivo espressivo, quello patetico. Ve lo faccio ascoltare senza molti commenti perché è un pezzo incredibile. Tira la Ellington, wah wah, grow. Sentite come ricorda Myself When I'm Real. Thank you. emotivo, patetico. Accelera! Siccome l'abbiamo, sì, è un pezzo da brivido, siccome lo abbiamo evocato più volte, vorrei farvi notare che il motivo che avete sentito, che suonavano i sax, tradotte con le lettere in tedesco, suonano B-A-C-H, Bach. È un motivo che ricorre spesso nella storia della musica. La conferenza potrebbe finire qui, è tardi, l'una meno un quarto, e sarei tentato dal salutarvi, però chi ha pazienza altri 5 minuti o un'ultima chicca. Ora, vorrei farvi sentire in realtà, brevemente, due autoritratti in musica che non hanno niente a che fare con tutto quello che abbiamo ascoltato fin qui, perché il bello alla fine è anche un po' sparigliare le carte. Abbiamo classificato, ordinato, dimostrato. Ora prendiamo due esempi meravigliosi di autoritratti in musica di Charles Mingus che non hanno nessuna delle caratteristiche ascoltate fin qui. Nell'autobiografia, l'autobiografia si apre con una pagina memorabile, non l'ho portata dietro perché insomma è celebre, comunque chi non l'ha letta compri il libro e la legga. Cito a memoria, dice più o meno Mingus, in altre parole io sono tre. E questi tre sono un uomo buono e generoso che si dà, che ha fiducia e si dona agli altri. Un uomo che viene tradito nella sua fiducia e diventa violento ed aggressivo. Ed un uomo che, dopo la fiducia tradita, si chiude in sé e non si apre al mondo. Lui si sentiva scisso non in due personalità, ma in tre personalità. Il dolce, generoso, l'aggressivo, violento, il depresso, chiuso. C'è un pezzo che si chiama Self-Portrait in Three Colors, autoritratto in tre colori. Non rappresenta queste tre personalità, forse ne rappresenta una sola di queste, quella dolce e generosa. ma è costruito in maniera molto semplice e ingegnosa. C'è una melodia e questa melodia è ripetuta 3 volte. Però ad ogni volta si aggiunge una seconda e poi una terza melodia. Quindi abbiamo una prima melodia che poi si ripete, mentre si aggiunge una seconda melodia. Alla terza ripetizione si aggiunge una terza melodia. Finisce il pezzo. Se volete dimostrare a qualche amico che il jazz non è solo musica improvvisata, ma anche musica scritta dalla prima all'ultima nota, Self-Portrait in Three Colors è l'esempio perfetto. Prima melodia. Questa breve cadenza è l'unico episodio improvvisato. L'ultimo ascolto di oggi è un pezzo di un paio d'anni dopo, si chiama Passions of a Man, ed è forse la cosa più vicina ad una espressione del sé scisso di Mingus non mediata. Non ve lo descrivo il pezzo, dura pochi minuti, ve lo consegno così com'è. Vi posso solo dire che alcune delle cose che sentite sono riportate anche nell'autobiografia. C'è una scena in cui il giovane Charles, il piccolo Charles, assiste alla morte di una persona che viene investita uscendo dalla chiesa. E allora c'è una specie di... c'è il sacerdote che esce e fa una specie di rito voodoo per cercare di riportare in vita quest'uomo e dice tutta una serie di parole nonsense che curiosamente si ritrovano pari pari in questo brano. Passions of a Man. Ricordatevi delle 3 personalità. Di cui Mingus parla all'inizio dell'autobiografia. Scusa. darà sole mamma? Lascia morire sole mamma. Chissà mara come restita un basa. Chissà un cara cara sumore che cosa un cordo mio. Ne se mona son cruta. Ne se mona le son cruta. Un cordo mio. Sono ancora caro America? Non sei ancora caro sono sempre viva lo so viva viva viva viva viva viva viva viva viva viva Sengura umbre kota umbre, ase heba dobro ere mama. Grazie.